music and film. Eminem, movie and music and film. Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one acre. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. We'll be right back. rival, whose length is one furlong and whose width is one shade. Una stanchezza che non so da dove mi viene, però so che ritorna puntualissima. Capisci cosa intendo? È tutto molto complicato, tutto faticoso, un continuo salta ostacoli. E lavati i denti la mattina, lavateli, 15 minuti però, se no che te li devi a fare? Vai a fare colazione sotto casa? No, sotto casa no, ci hai litigato, vai a un altro bar. Leggi questo libro, dicono tutti è un capolavoro, vai, 3 settimane, pagina 21. È tutto complicato, è tutto molto faticoso. Tu mi dirai la città, lo stress di città? No, è faticosa pure la campagna. Ci vive nonna in campagna, lo so come funziona. Fai la legna, sgozza il coniglio, respira forte forte quest'aria quando la ritrovi, fai a cazzotti con i contadini. Hai avuto problemi con i contadini? Sempre ho avuto problemi con i contadini. Sono strani. In un bar c'era uno che mi guardava così. Fisso, 5 minuti, così. Tu mi conosci, quanto ci mette a partire un essere umano? Niente. Come niente? È il giusto. Oh, tu mi guardi così, io ti parto. Purtroppo aveva un emiparesi, poverino. Poi sono famiglie numerosissime. Per questa storia dell'emiparesi ho dovuto litigare 8 giorni di seguito. È tutto molto faticoso. Sergio, ma se fossimo noi degli esseri eternamente insoddisfatti, ci hai mai pensato? Potrebbe essere. Persone talmente evolute, ma talmente tanto, che dove ci metti, la situazione ci sta stretta. Potrebbe veramente essere così, lo sai. Ma infatti noi ci siamo scelti un lavoro, a suo modo, di grandissimo respiro. Noi non eravamo fatti per dire, c'è anche per fare un lavoro di quelli che stai chiuso, fermo, capito? No. Qui ci sono, dico, gente, pubbliche relazioni. Aria aperta, le stelle, Cianca, stiamo tutta la sera a guardare le stelle, la libertà, Cianca, la libertà. Oh, io vi pago per stare alla porta e non al muretto. Scusa, capo. Scusa. Che poi la libertà, collega, a modo suo, sta tutta qua. Yeah. sto a dire solo per farti capire che le persone sono complesse, hanno lati che non conosci, hanno comportamenti mossi da ragioni intime e insondabili dall'esterno. Noi vediamo solo un pezzetto piccolissimo di quello che c'hanno dentro e fuori, e da soli non spostiamo quasi niente. Siamo fili d'erba, ti ricordi? Non lo so, sono confuso. Ora mi sento un coglione egocentrico. Eppure la storia dei fili d'erba io so che è vera e non fa una piega. Eppure non mi riesce a fare quell'effetto rasserenante dei 30 anni fa. Sarà pure che mi guardo intorno, adesso più che fili d'erba a me mi pare che siamo proprio stracci. Brandelli sottili e ciancicati uguali alle vite che si ritrovavano in mano. Siamo pure stupidi, perché se impuntiamo a far confronto con le vite dell'altri, che a noi ci sembrano tutte perfettamente ritagliate, impilate, ordinate, e magari sono così perfette solo perché noi le vediamo da lontano, invece sotto l'occhio ci abbiamo solo ste cartacce senza senso, che sono proprio distanti dalla forma che avevamo pensato. Calcola che se domani arriva San Pietro e mi chiede che forma hanno le vite delle persone intorno a me, o non lo so perché San Pietro, mi pare uno che se domande del cazzo le fa, io gli risponderei la forma di una che pensava di fare l'insegnante e ha passato la vita insieme a quel sogno, a ritagliare quella sagoma là, e mo invece tutta l'esistenza sua gli si squaglia tra le mani giorno dopo giorno in un ufficio de merda fuori dal raccordo a portare caffè a gente che manco si ricorda come si chiama. Oppure a forma di uno che vive sempre in bilico con sta spada e Damocle sulla capoccia, che se sto mese non gli stacca una luce e il gas dipende solo da che carte gli sono capitate in mano a sto giro e da quanto so forti o so pippe da altri giocatori del torneo. Ecco, forse alla fine a Pietro gli direi a pie. Io non lo so se questa è ancora una battaglia oppure se ormai è andata così, che abbiamo scoperto che si campa pure con queste forme frastagliate, accettando che non ci faranno mai giocare nella squadra di quelli ordinati e pacificati. Però se potremmo comunque stare intorno al fuoco e ricordasse che tanto alla fine tutti i pezzi di carta sono buoni per scaldarsi. E certe volte quel fuoco ti basta. E altre volte no. Mille anni non sono che un istante. Non c'è niente di nuovo, niente di diverso. È lo stesso disegno che si ripete. Stesse nuvole, stessa musica, la stessa intuizione di un'ora o un'eternità fa. Non c'è niente per me adesso. Niente di niente. Ora ricordo, mi è già successo prima. È per questo che me ne sono andato. Tu hai cominciato a trovare le tue risposte. Anche se sembra difficile, la ricompensa sarà favolosa. Esercita la tua mente il più a fondo possibile, consapevole del fatto che sia solo un esercizio. Crea bellissimi manufatti, risolvi problemi, esplora i segreti dell'universo fisico, assapora gli stimoli di tutti i tuoi sensi, prova la gioia, il dolore, il riso, la compassione e portane il ricordo con te, mettendoli nel tuo zaino. Io ricordo da dove vengo e come sono diventato un umano, perché vado errando e ora la mia partenza definitiva è fissata. L'uscita è di qua, fuggire alla velocità, non solo l'eternità, ma l'infinito. Sembrava notte ma era giorno.